1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, siamo pronti a leggere i giornali nella rassegna stampa di oggi. Dai, tuffiamoci in questa lettura. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. Allora, è giovedì 26 maggio, il titolo principale è dedicato a questa strage evitata di migranti in mare. Il Sole 24 Ore invece apre sulla BCE pronta a accettare bond greci. Questo è il titolo di prima pagina. Ma dicevo appunto il miracolo dei 562 salvati in mare. Il Corriere della Sera racconta l'intervento della Marina Militare Italiana per il barcone che si è ribaltato al largo delle coste libiche. Repubblica, scafisti, strage senza fine, salvati oltre 500 migranti. Per il Messaggero, migranti, la Marina evita la strage. È il titolo anche dell'Unità dedicato a questo. Noi li salviamo, questo è il titolo. La Stampa, i marinai italiani salvano 562 profughi. Ma c'è anche il G7 da Obama e Renzi, patto per la crescita. Ma Merkel si oppone. Per il Fatto Quotidiano, referendum, le 30 bugie del sì. Mentre Libero, tassa nascosta sulle pensioni, incassano i sindacati. Questo è il titolo di prima pagina. Nessuno mette in prima pagina, ma c'è ampio risalto ovviamente per la vicenda di Firenze, dove ieri una doppia rottura alle tubature dell'acquedotto ha creato, dopo un allagamento di 200 metri di terreno, una voragine che ha inghiottito la trentina di veicoli parcheggiati lungo l'Arno. E allora, tutti i giornali raccontano la cronaca, le foto certamente sono più eloquenti a volte di tanti articoli. Le foto si vedono proprio le macchine parcheggiate all'isca di pesce che franate, sono letteralmente franate lì sotto, alcune finite proprio nell'acqua. Il fiume carsico inizia a scorrere a mezzanotte e mezzo dall'asfalto e dalle antiche pietre, racconta Marco Gasperetti sul Corriere della Sera. Sembra inarrestabile, minaccia quel tratto di Firenze che unisce Ponte Vecchio a Ponte delle Grazie, Ponte alle Grazie, lo trasforma in parte in acquitrino. Poi, 6 ore dopo, quando la gigantesca perdita dell'acquedotto sembra riparata, il crollo che non ti aspetti, il marciapiede che costeggia la spalletta e un tratto di strada tremano e collassano. E allora i testimoni vedono scomparire letteralmente le macchine. Fortunatamente era mattino presto e quindi non c'era nessuno in strada, non ci sono vittime tra le persone. Ma questa voragine di 200 metri che vede il sindaco Nardella in primo piano a dire: ora se c'è qualche responsabile voglio che paghi, intervistato da Repubblica, pagina 2. Era prevedibile tutto ciò? Non credo, dice Nardella, intervistato da Ernesto Ferrara, ma come sindaco ho il diritto dovere di dare risposte e cercare la verità. Lo devo a me stesso, ai fiorentini, a tutto il mondo. Firenze è patrimonio dell'umanità. Chi ha sbagliato dovrà pagare. L'ipotesi di cui mi sto convincendo sempre più è di un errore umano. Intorno alla mezzanotte di mercoledì c'è stato un intervento sul Lungarno Torrigiani per un primo allagamento. È intervenuta una squadra di Publiacqua, società che gestisce la rete idrica, che non ha ritenuto di dover fare controlli più accurati. Hanno pensato di aver riparato il danno e se ne sono andati. Alle 6:15 è crollato tutto. Forse sarebbe servita una verifica più approfondita. E alla domanda se chiederà le dimissioni del presidente di Publiacqua, dice: non credo si debba dimettere il presidente Filippo Vannoni, che anzi si è dimostrato disponibile e attivo. Chi è responsabile è l'amministratore delegato dell'azienda, che ha pure avanzato ipotesi poco convincenti sulla dinamica, arrivando a sostenere che potesse essere colpa di un'altra tubazione, non di Publiacqua. Insomma, sembra che nel mirino del sindaco Nardella ci sia l'amministratore delegato di Publiacqua. Tra l'altro l'imbarazzo ovviamente nella Firenze anche di Renzi, e infatti i giornali, alcuni attaccano, per esempio guardate qui Libero mette il titolo proprio così: si rompe un tubo, governo ladro. Questo è l'editoriale di Vittorio Feltri. Come ai tempi dell'Aquila parte la caccia al colpevole. Però, scrive Feltri, non sempre le tragedie si possono evitare. Mentre Il Giorno fa notare l'imbarazzo tra i democratici, figuraccia in diretta mondiale, altro che la neve a Firenze, una figuraccia storica, chi ha sbagliato deve pagare al più presto, questo è lo sfogo raccolto da Ettore Maria Colombo da un deputato renziano, anzi renzianissimo, scrive Il Giorno, per quanto anonimo, e la dice lunga sul clima che si respira in transatlantico. Renzi tace, vola a Tokyo, ma subito è volato a Firenze Luca Lotti, sottosegretario. E anche qui c'è chi maligna. Avrei voluto vedere se il crollo fosse avvenuto a Reggio Calabria, se Lotti volava sul posto immediatamente. Insomma, siamo, anche questa è l'Italia, siamo il paese delle mille polemiche e va bene così. Comunque a Firenze c'è sicuramente una situazione molto, molto complicata. Ho invece un casting in Rai ha fatto letteralmente infuriare molte associazioni, ha fatto infuriare anche il nostro Gianluca Nicoletti, che ha fatto un'iniziativa secondo me assolutamente giusta. Il casting della Rai. Allora, oggi ne parlano tutti i giornali e tutti i giornali raccontano quello che è successo per un annuncio apparso su Facebook per una nuova fiction di Francesca Archibugi. Sulla pagina della responsabile del casting, peraltro subito cacciata, fanno sapere dopo questa polemica i giornali, è apparso questo messaggio. Insomma, si cercano delle persone per fare un casting. E allora i casting, come scrive su Repubblica Silvia Fumarola, gli annunci dei casting sono sempre in qualche modo discriminatori. Si cercano corpi palestrati, le bionde vere, i portatori di piercing. E quindi qui si cercava un ragazzo di origine araba, un ragazzo di origine slava, ma poi a un certo punto appare anche si cerca il ragazzo di 15-18 anni nano o con altra disabilità che trasmetta tenerezza. È apparso questo annuncio. E scrivono i giornali, beh, c'è un limite a tutto. Nella pagina della responsabile del casting, Luana Vellischig, c'è appunto la ricerca di un ragazzo con disabilità che trasmetta tenerezza. I social ovviamente non perdonano, l'annuncio su Facebook diventa un caso, la protesta esplode. Anche il nostro Gianluca Nicoletti, che ha raccontato tante volte in un libro, in libri e anche qui a Radio 24, la vita con suo figlio Tommy autistico, si scaglia e posta questa foto con Tommy in primo piano e la scritta casting disabili tenerezza sto cazzo e poi la polemica che finisce sui giornali, cerca di disabili che ispirino tenerezza, la bufera sul casting Rai. Ecco anche il Fatto Quotidiano, nano, disabile e tenero, la Rai cerca fenomeni da baraccone. E Libero dedica anche una pagina a questo con Brunella Bolloni. Insomma, la polemica è servita su tutti i quotidiani. Mentre siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo che vince il premio Mani sul volante anche oggi, se siete alla guida e appoggiate tutti gli oggetti contundenti, mi raccomando, se state facendo colazione, è l'ennesimo articolo dedicato all'ATAC, azienda dei trasporti di Roma. Fulvio Fiano e Ernesto Menicucci raccontano, sulla base della relazione del direttore generale dell'ATAC, Marco Rettighieri, sul Corriere della Sera, questi dettagli. Ogni anno, per esempio, nel triennio 2013-2015, l'ATAC ha pagato 16 milioni di euro per il rinnovo gomme del parco autobus, contro una stima di spesa per la fornitura che era di 8 milioni di euro. Ogni anno l'azienda municipalizzata paga 4,3 milioni per il servizio mensa e il dopolavoro dei suoi dipendenti affidati senza contratto dal 74. Ogni anno iscritti alle varie sigle di lavoratori hanno goduto di permessi e distacchi sindacali senza giustificazione. Avviene all'ATAC. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alino, A Di Maurino, cadagi giù, perché lui è gitto giù di già. Dialetto perugino. E va bene, si è capito tutto, anche dal perugino. Evviva le nostre sigle in dialetto al 349-238-6666. Mandatele via WhatsApp. Dico le nostre sigle perché sono vostre, ma diventano nostre in questo legame indissolubile che ci unisce e ci rende fraterni e fratelli e vicini. Va bene. Allora, cari ascoltatori, arriva proprio un messaggio poco fa in pubblicità a dire ieri la Marina Militare Italiana ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Questo ci scrive Alessandro dalla provincia di Varese. Allora, cosa è successo? Vado a leggere proprio questo. La Marina Italiana che ha salvato 562 migranti, una barca che si era rovesciata al largo delle coste della Libia. E Fabrizio Caccia racconta sul Corriere della Sera: a 25 nodi per salvarli. Si direbbe che la commozione sia pari alla soddisfazione nella voce dell'ammiraglio Salvatore Vitiello, che giunge via radio dalla nave Bergamini, terminato il soccorso 20 miglia a nord di Sabrata. Quando è scattato l'allarme, abbiamo lanciato la nostra nave di 6.000 tonnellate a 25 nodi verso il luogo del naufragio. Vi rendete conto? Una cosa esagerata, un mezzo miracolo, esclama l'ammiraglio. E racconta, insomma, delle persone tirate a bordo che piangevano di felicità, abbracciavano i nostri marinai facendo la V con le dita in segno di vittoria, gridando freedom, freedom, cioè libertà. E è pieno di, oltre che di foto, di testimonianze sui giornali, anche Giampaolo Cadalanu sul Repubblica intervista il capitano della nave Francesco Iavazzo, che dice: il comando ci aveva avvertito molto presto, indicandoci il punto dove fare rotta. Si è presentato davanti a noi un peschereccio di 13 metri, chiaramente troppo affollato. Non so quanto sia normale. So da quella barca abbiamo recuperato 432 persone, 341 uomini, 48 donne, 43 minori, una decina bimbi piccolissimi. La situazione richiedeva un intervento rapido e in situazioni come questa ognuno fa la sua parte. Li rifocilliamo con il classico tè caldo e la coperta. Ma ancora più importante è lo screening sanitario. In caso di necessità possiamo anche evacuare via elicottero chi avesse bisogno di cure urgenti. Poi però la barca si è rovesciata e, insomma, dice in conclusione dell'operazione di salvataggio: il lavoro dei militari, dei marinai specialmente, non si fa pensando al contratto, e in mare la salvaguardia della vita umana è qualcosa di sacro. Così dice il capitano Francesco Iavazzo. Tra coloro che sono state portate subito a Lampedusa c'è, e le immagini, anche questo, le foto hanno fatto già il giro del mondo e sono sui giornali, una piccolissima bambina che è stata presa e curata da Pietro Bartolo, protagonista del film Fuoco a Mare, e che a Lampedusa, come racconta Laura Anello a pagina 5, ne ha visti a migliaia, morti, vivi, feriti, bambini, vecchi. Ma questa bambina gli ha toccato il cuore, si chiama Favor, viene dal Mali e dice: ora il dottor Bartolo l'ho chiesta in affido, la vorrei tenere con me per sempre. Una bambina bellissima, mi ha abbracciato, mi ha fatto la pipì addosso, non ha versato una lacrima, si è fatta visitare senza lamentarsi mai, una creatura meravigliosa. L'ho messa nelle braccia di una mia assistente fidatissima, le ho detto: stai attenta, non la dare a nessuno neanche per un attimo, mentre io visitavo gli altri. Poi l'ho portata al poliambulatorio, l'ho visitata, era un po' raffreddata e disidratata, ma poca roba, stava benissimo, col faccino tondo, una bambina di bellezza straordinaria. E la foto la trovate anche sulla Stampa, no? In questo racconto di Pietro Bartolo, che dice: ora la vorrei e l'ho chiesta in affido. Queste immagini, questi articoli, che sicuramente toccano anche la sensibilità di ognuno di noi, sono da mettere insieme a questa bella pagina di Dario Di Vico, che trovate sul Corriere della Sera, pagina 10. È un'analisi profonda dal titolo Le nuove disuguaglianze, e riguarda l'ultimo tabù degli italiani, il silenzio su un milione di bambini che vive in povertà assoluta, in Italia. E scrive Di Vico: come italiani siamo generosi con le adozioni a distanza, ma fatichiamo a accettare che da noi vivano 1.100.000 bambini in povertà assoluta, che diventano 2 milioni se esaminiamo la povertà relativa. Si tratta di un bambino su 5. Perfino nella rissosa politica è rimasto quest'ultimo tabù, la paura di ammettere che in Italia ci sono situazioni che una volta definivamo da terzo mondo e che non coinvolgono solo ragazzi stranieri. Questa amnesia convive con un paradosso: la quota crescente di bambini poveri si accompagna alla diminuzione delle nascite. È anche il quinto anno consecutivo che la fecondità cala, ora è pari a 1,35 bambini per donna, cifra che andrebbe ancora ridotta se conteggiassimo le sole mamme italiane. Il recente rapporto Istat ha dedicato attenzione al fenomeno, indicando nei minori il soggetto che in termini di povertà e deprivazione ha pagato il prezzo più elevato della crisi, peggiorando anche rispetto agli anziani. E insomma, e qui c'è tutta l'analisi, è un'intera pagina contro questa cultura anzianista che non tutela soprattutto i più piccoli bambini. 1.100.000 poveri, e non sono solo stranieri, sono anche molti italiani, qui in mezzo a noi, in Italia. La politica per un giorno in qualche modo è un po' sospesa, tanto è la solita rissa, la solita questione nel centro. Nel centro-sinistra c'è la questione del referendum, il dibattito sulla sinistra PD. Secondo il Corriere della Sera, per Monica Guerzoni cresce la tentazione del no da parte della sinistra PD, quella bersaniana, tanto per intenderci. Mentre Renzi, nel consueto retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, Renzi dice: ma vedrete che quando ci avvicineremo al referendum, alla fine la minoranza opterà per il sì. Ora è chiaro, devono tenere il punto, ma li voglio vedere poi a dire no. Sarebbe come negare l'impostazione riformista del Partito Democratico. E vabbè, c'è Salvini che sul Corriere della Sera dice: al voto sul Senato vedremo se anche Parisi vuole stare con l'Italia libera, perché intervistato da Marco Cremonesi, Salvini annuncia domenica farà una manifestazione a Milano per il no al referendum con la Lega. E Salvini pone un ultimatum, cioè vuole che anche Parisi si pronunci. In qualche modo tira un po' la corda con l'alleato, tanto che a un certo punto parla anche di Europa e dice di Berlusconi: Berlusconi è molto europeista, ma presto dovrà scegliere o con noi o con la Merkel. La via di mezzo non è più possibile. Insomma, un Salvini che dice: dopo il 20 giugno Silvio deve scegliere tra noi e questa Europa. Un Salvini che cerca di, come dire, tirare un po' la corda appunto con l'alleato. Va bene, rischia di diventare la notizia politica che mi ha incuriosito di più la storia raccontata dal giornale Simone Di Meo, e la storia dell'ex deputato Franco Barbato. Ve lo ricordate Franco Barbato, quello con i capelli un po' lunghi, quello che napoletano, campano, che insomma faceva anche tante iniziative un po' estemporanee? Racconta il giornale che ora vive un dramma personale interiore perché la figlia è diventata una musulmana, diciamo abbracciando l'Islam radicale, va in giro con il velo integrale, si è trasferita in India, posta su Facebook solo inni all'hijab, appunto il velo integrale, e dice che la strada che ha scelto per me Allah è questa. E allora Franco Barbato dice: vivo questa conversione non male ma malissimo, è una religione troppo dura, troppo radicale, troppo rigida, una religione integralista. E va bene, sono cose che capitano. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guarda, a proposito di figli, sì. Tu hai figli, Alessandro? Due, ben due. Oh, benissimo, allora guarda, oggi, sai che io, giovedì, sul Sole 24 Ore ci sono le pagine di Casa 24. Sì, certo. Ecco, nelle pagine di Casa 24 oggi, come il servizio di apertura di queste pagine, proprio la donazione, l'assegnazione della casa per i figli. Come fare anche per evitare poi di dare spiegazioni superflue al fisco, superflue nel senso che trasferimento di proprietà tra genitori e figli, appunto, non ha di questo tipo di sospetti. E trovi tutto sulle pagine di Casa 24 di oggi, a proposito appunto di figli, quindi pensaci, comincia a mettere da parte. Intanto sappi che, come leggi già dalla prima pagina, c'è stato questo accordo sul debito greco, la Banca Centrale Europea è pronta ad accettare di nuovo i titoli di Stato greci come garanzia, e insomma, guarda, ti spiega tutto Beda Romano, tra le pagine 2 e 3 ti do solo un dato, 10,3 miliardi, è la tranche di aiuti che andiamo, quanto metti tu? No, perché? infatti, ero già timoroso di queste cose. Due eurini. La casa puoi lasciarla già ai figli, te lo spieghiamo su Casa 24, metti 2 eurini. Ce l'hai il bonus, l'instant sul bonus casa, a proposito di casa, l'hai preso ieri? Quello di ieri, sì, come no? Quello, certo. No, perché sempre se per lo stesso, caso l'avessi perso, sappi che da oggi puoi trovarlo anche in vendita in formato digitale sul sito del Sole 24 Ore, se per caso tu te lo fossi perduto ieri. Ti volevo anche segnalare invece un altro numero che è grosso modo 3 miliardi e mezzo, è il valore delle squadre che scenderanno in campo a Milano per la finale di Champions League sabato. Milan e Inter, San Siro, Milan e Inter. No, sono Real Madrid e Atletico Madrid. È un derby, Sole 24 Ore, è un derby, sì, non è il nostro, però sul Sole 24 Ore di oggi, nelle pagine di commenti, già ti invitai in questi giorni a leggere le pagine di commenti, e anche questa ricerca sul valore delle squadre di calcio, siamo messi un po' indietro, è molto messa bene invece la squadra che ha vinto il titolo di recente, anzi ne ha vinti due, uno anche a tue spese. Non conosco. Non te lo ricordi? Anche io fatico, come dire, a ricordarmelo, però Paris Saint-Germain? No, parliamo di una squadra italiana, va bene, passiamo oltre perché, molto importante, è qui Radio Fisco, ma poi riguarderà tutti, è pronto il decreto per le semplificazioni fiscali. Provi tutti i particolari sulle pagine di norme e tributi, in prima pagina leggila religiosamente, tra le altre cose anche la sospensione dei pagamenti nel periodo di agosto, ma ci sono diverse novità molto molto importanti che ti segnaliamo sulle pagine di norme e tributi. E sempre nelle pagine di norme e tributi, dulcis in fundo, ti voglio pure indicare il voto definitivo sul cosiddetto decreto legge scuola. Sai quello per pagare i supplenti entro 30 giorni? Certo. Quello per le commissioni, per aumentare l'indennità, la quota appunto di pagamento dei commissari d'esame, ecco proprio quello lì. E c'è anche dentro la norma che corregge l'ISEE, l'indicatore della situazione equivalente, della situazione economica equivalente, per quanto riguarda i trattamenti a sostegno delle disabilità. Se non hai capito, leggi norme e tributi. E come sempre, traffico! Sandro Milan, il trick e ballacche dell'informazione. E allora, alle 7:50 minuti, una notizia, qualche notizia di cronaca, quelle che riusciamo a dare. Luigi Ferrarella racconta sul Corriere della Sera, pagina 20, di 6 anni dati agli aspiranti jihadisti. È una condanna per terrorismo internazionale data all'Assad Briki e Muhammad Waqas, che erano stati fermati un anno fa circa, 11 mesi fa per la precisione. Semplificata all'osso, scrive Ferrarella, la questione è questa. Assodato che lo Stato Islamico, autoproclamatosi tra Siria, Iraq e Libia, è un'associazione con finalità di terrorismo internazionale. Per il diritto italiano può esistere un partecipe all'associazione senza però che essa sappia di avere un aderente alle proprie finalità terroristiche? Ieri per la prima volta un giudice monocratico ha stabilito nella Corte d'Assise di Milano di sì. Cioè non un giudice monocratico, ma la Corte d'Assise di Milano ha stabilito di sì e ha condannato a 6 anni il 36enne tunisino Lassad Briki e il 28enne pakistano Muhammad Waqas, arrestati 11 mesi fa a Manerbio appunto per terrorismo internazionale. E Luigi Ferrarella lo racconta a pagina 20 del Corriere della Sera. A proposito però di notizie internazionali, c'è un'inchiesta del quotidiano spagnolo El País che rischia di creare un po' più di seri imbarazzi nel contingente militare italiano che è al seguito dell'ONU, quindi caschi blu, in Libano. Trafficano cibo, questa l'accusa contro i caschi blu italiani. Lo racconta il Corriere della Sera, ma lo racconta anche il Fatto Quotidiano in una pagina. Sul Corriere della Sera Ilaria Sacchettoni racconta: la più storica tra le missioni di pace delle Nazioni Unite rischia di travolgere la reputazione dei caschi blu italiani. Secondo un'inchiesta del quotidiano spagnolo El País, il nostro contingente e anche il contingente del Ghana sarebbero al centro di un traffico di cibo, prodotti inviati alle truppe e rivenduti in loco nei supermercati. Un giro d'affari che si aggirerebbe, come stima, ai 4 milioni di euro. Approfondimenti ovviamente che sono in corso. Il Ministero della Difesa dice l'UNIFIL, cioè la missione ONU, ha preso da tempo tutte le misure adeguate in coordinazione con la sede centrale delle Nazioni Unite, con lo scopo di investigare questo tipo di accuse, ma al momento non vi sono prove che possano confermare una sistematica operazione legata al traffico di alimenti né il coinvolgimento di italiani nel traffico. Questa è la posizione del Ministero della Difesa, ovviamente molto molto prudente. Staremo a vedere, certo che le accuse sono pesanti e anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina su questo. I caschi blu in Libano fanno affari con il cibo. Questa è l'accusa dell'inchiesta del quotidiano spagnolo El País. Poi io, sempre per rimanere sul Fatto Quotidiano, che devo dire, pagina 2 e 3 dedicata allora al giallo di Montella Ventura, CT della Nazionale. Il Fatto Quotidiano dice, l'ho anticipato già ieri, secondo quanto apprendiamo noi, era ormai deciso per mettere Ventura al posto di Antonio Conte, che lascerà dopo gli europei, ma dopo un incontro tra Tavecchio, presidente della federazione, e a Palazzo Chigi, con chi? Con Renzi, con Lotti, insomma, ecco, diciamo che salgono le quotazioni di Montella, che guarda caso ha allenato la Fiorentina. Secondo il Fatto Quotidiano il giallo è questo, e cioè Palazzo Chigi vorrebbe un rappresentante nazionale più giovane, più fresco, più mediatico, magari che ha allenato anche la Fiorentina, insomma non fa male, non fa male questa cosa. Va bene, che dobbiamo dire? Staremo a vedere. Vi segnalo solo rapidamente, non c'è tempo per leggere, una bella pagina di Repubblica dedicata a uno scienziato italiano. Ho letto lo scienziato italiano che legge nel cervello, è il professor Francesco Saverio Pavone, che dirige l'European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, insomma una struttura dell'Università di Firenze, del CNR, che ha ottenuto dall'Unione Europea un premio da 2.300.000 euro per il progetto di un team di leggere appunto nel cervello per ripararlo. È insomma una bella pagina di Elena Dusi dedicata a questo scienziato italiano. Le eccellenze ci sono. Ed eccoci qua! Alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, oggi vince Libero, Libero, e i gatti, e l'ultima follia è quella del gatto vegano, costringere il gattino, non ridere Peter Pescapè, a mangiare vegetali. E il mio micetto, la mia micetta Zen me lo dice, miau, miau, che io traduco sempre, ma buttami ste crocchette di pollo di manzo e tieniti la carotina! Ma chi se ne frega!